Harvest of Hope, tradotto in italiano vuol dire il raccolto della speranza, è ovvio, ed è una tematica ambientale molto strano per un contesto africano, l'ultimo dei figli d'Africa, l'Eritrea, che sceglie un problema non particolarmente eritreo, non particolarmente africano, ma un problema globale, un problema ambientale. Allora, l'Eritrea è beneficiaria di un progetto agricolo che può essere considerato la seconda rivoluzione dell'agricoltura. Questa volta il riscatto dell'uomo è utilizzare l'acqua di mare per un'agricoltura di alofite, ovvero di piante che amano oppure possano crescere con l'acqua marina. Io direi che è un progetto globale, non un progetto solamente eritreo, è un progetto applicato in Eritrea dai ricercatori del Desert Development Foundation dell'Università di Arizona. Sta iniziando questo progetto in Eritrea, che poi vorremmo che fosse divulgato in tutti i perimetri di costa desertica che ci siano in Africa e poi nel resto del mondo. Il film o il documentario è intitolato Il raccolto della speranza. C'è un'immagine che enfatizza questa speranza ed è un carro armato che è rovesciato verso giù. Il posto dove avviene oggi la Sea, dove è applicata oggi la Sea Water Forest, fu un campo di battaglia 10 anni fa per la liberazione dell'Eritrea, ed era un tank danneggiato lì nel bel mezzo del deserto. Nessuno ha pensato di rimuoverlo, e simbolicamente questo tank rappresenta tutto quello che ieri era il motivo della povertà, le guerre. Però l'uomo è un animale sensibile, conosce i problemi e poi li vuol risolvere. Quando si stanca di fare le guerre, poi dice basta, adesso devo pensare a qualcos'altro. E nel film c'è questa immagine di un tank capovolto nelle wetlands, oppure negli estuari creati dall'uomo, e le molecole di questo tank faranno parte di questa immensa di questo immenso progetto, ma questa volta non sparando, ma consumando le sue molecole con la terra.